tanto oramai sei diventata come tutte le altre. Dura mezz'ora il nostro amore, ma una volta anche tu di un minuto in più. Tanto oramai sei diventata come tutte le altre. Dura mezz'ora il nostro amore, ma una volta che duri un minuto in più. Eppure mi ricordo ancora il primo giorno, un gioco per me era tutto un gioco. E come un gioco tu mi hai preso piano piano, ritrovandomi vicino a te e allo stesso tempo lontano. Le prime uscite, i primi baci, quelle nozze senza stracci, nella spiaggia ad abbracciarci, pensavamo a completarci. Ho cominciato a distanziarmi, paura di affezionarmi. Sei da sola a soffrire, questa cosa uccide entrambi. Eri la prima storia seria in questa vita mia non seria. Due contrasti troppo forti per far sì che funzionasse. Il gioco continuava, l'amore che mancava, ma tu sapevi quanto tutto ciò non mi importasse. Tutto questo era impossibile, mille cose a cui pensare, premurosa e sensibile, io capace ad amare, cercando di tirar fuori tutte quelle sensazioni, distruggendo i miei valori per te. Tanto oramai sei diventata come tutte le altre. Dura mezz'ora il nostro amore, ma una volta che duri un minuto in più. Tanto oramai sei diventata come tutte le altre. Dura mezz'ora il nostro amore, ma una volta che duri un minuto in più. Molla per un po', ti lasciavo ma non so. Quando ti mandavo via, dopo ti rivolevo mia e così via. Chissà brutta situazione, provocava frustrazione. Provavo un senso di grande delusione. Non era amicizia, non era amore. Era una strana sensazione. Vorrei spiegarti Maruscia, non so come. E poi arrivò quel giorno dove dissi addio. Ti resi le tue cose e anche ciò che di tuo era mio. Restava solo quel ricordo, ogni tanto una tua chiamata, che da parte mi è stata sempre rifiutata. Ora ho altro a cui pensare, sei più nei miei problemi. Quel gioco assurdo è finito, sono fuori dagli schemi. Lo sai anche tu quanto era assurdo. Ci amavamo solo mezz'ora. Avrei da dirti mille cose, ma non vali mezza parola. Tanto oramai sei diventata come tutte le altre. Dura mezz'ora il nostro amore, ma una volta che duri un minuto in più. Tanto oramai sei diventata come tutte le altre. Dura mezz'ora il nostro amore, ma una volta che duri un minuto in più.